benvenuti al primo episodio di Mister Segone Triforce o Triforce, come lo volete dire voi. E qui noi teste alte della Mister Segone parleremo dei videogiochi in generale. Qui con me, ovvero Variopunk, futuro signore del mondo, Pietro Turri, creatore e tessitore di sogni, c'è Claudio Turri. Sono uno stimato fan delle avventure degli anni 80 e 90, mi piacciono solo i giochi della Nintendo. Ok, e il nostro responsabile marketing Riccardo Prati. Buonasera. Giravoce anche che più tardi riceveremo la visita del produttore esecutivo Micio Segone. Mi fa ridere pensare che verrà il produttore esecutivo. Allora, gli Ma chi è argomenti di questo? questa sera sono il JRPG Ephemeral Fantasia. Poi non so, te cosa vorresti parlare? Ah, beh, gli RPG ce ne sono stati tanti nella storia della Nintendo. A me è piaciuto un sacco Earthbound, che l'ho trovato a un prezzo ragionevole su eBay, cioè 250 euro, quindi compratelo. Wow. Non l'ho mai visto i 250 euro tutti attaccati in una banconota. Vabbè, neanche io le banconote a 350 le ho mai viste, però fa niente. Nel mondo dei Pokémon girano molto velocemente. E invece te, Riccardo? Boh, io penso che parlerò di videogiochi di Di ultima Super Mario 64. generazione, specialmente di videogiochi Blizzard in questa puntata. Ok, quindi apriamo le danze. Inizia tu con Earthbound. Ah, certo, io sono quello che parla degli anni 90-80, anche se non so di che anno è, quindi devo iniziare per forza io. Te lo vado a dire. Ma c'è già Moratone. No, di che anno è Earthbound? Ah, vabbè. Tanto te inizia a parlare. Ora, come tutti sappiamo, la Nintendo ha creato grandissimi Sì, è giochi. meno prosaico però. Da Super Mario, King Kong, poi c'è Earthbound. Ci siete mai chiesti chi è quell'omino scemo? Sai, in realtà sono due, che sono i Smash Bros. Ecco, quelli lì sono i protagonisti di Earthbound e di Mother 2, che è il La seguito. copertina di Earthbound è Chi ha bellissima. cambiato muso? Earthbound è dell'... No, Mo Mother è dell'89. Earthbound è il secondo Mother. Ah, ok, No, quindi ti piace aspetta. Mother. No, no, no. Ah, il nome originale di Earthbound, Ah, è del giusto? 94 in Giappone, 95 nel resto del mondo dove è arrivato. Tipo in Italia mi Videogioco sembra non di sia mai arrivato. ruolo, tema fantasy, un giocatore, Sì, supporto vabbè. cartuccio. Riferimenti musicali ovviamente non li trovate, però se cercate su Wikipedia, vabbè. Aspetta, intanto parliamo della piattaforma. Ah, beh, Console, mitico computer. Super Nintendo. Ah, Lo ok. SNES. Lo SNES. Quando uscì lo trovate insieme a giochi come Street Fighter, Super Mario World, Sì. e ancora oggi, se andate su eBay, l'ho trovato usato a pochissimi Noi soldi. avevamo l'edizione con Street Fighter. Noi abbiamo Abbiamo due due edizioni con Street SNES, Fighter. sì, esatto. Tutte e due con Street Fighter, vabbè. Abbiamo Street Fighter 2 Turbo, ma torniamo ad Earthbound. Earthbound è un gioco che narra la storia di questo ragazzino, Nash, che però voi solamente dovete cambiargli nome, Mac. Knack, che all'inizio della storia praticamente vive in questa città chiamata Onet, dove non succede mai nulla. Una sera cade una specie di meteorite nella collina della città e voi con il vostro cane, di cui potete dare il nome che vi pare, Non diciamo che non me l'hai dato te perché siamo PG stasera. siamo PG, quindi Siamo vietate non minori. si può Ah, parlare di sesso di cani che si chiamano sesso. e di Allora, piatti preferiti che si chiamano. no, quello no. Vabbè. Comunque, quando il nostro piccolo ragazzo, con l'aiuto del suo cane, arriverà insieme a un meteorite, incontrerà una mosca aliena, Aliana. aliana, che gli dirà che lui è il ragazzo che dovrà salvare il mondo da una terribile catastrofe. Qui entra in gioco il fatto che voi dovrete trovare 8 templi nascosti e trovare le reliquie al loro interno, utilizzando i poteri magici che vi insegnerà la mosca. E qui parte l'avventura del nostro piccolo Nash, Neck, come l'avete chiamato voi. Neck, è meglio. Adesso non vado avanti perché potrei spoilerare morti di personaggi, Beh, colpi di diciamo scena che filmati. Ness non si sa, no, perché è stato punto dalla mosca, ha poteri paranormali. Sì, ma gliel'ha trasmesso di sua volontà. Sì. Aspetta che Oh mio c'è Dio. Tombi che... Ecco, quindi non basatevi sui 7 maiali cattivi, andate avanti. Comunque, La storia è molto avvincente, sembra di giocare a un gioco di Pokémon in Earthbound, perché più o meno sono solo giri in città e poi piccoli dungeon. Però è molto bello perché vi imbatterete in un sacco di cose particolari, personaggi stravaganti, sette malefiche, nemici strani come pagliacci o punk pogo. Non posso dirvi di più perché mi sono fermato a metà del gioco, non riesco ad andare. Incapacità, va bene. Non è incapacità in noi, però è un bel gioco comunque. C'è anche, parla del sistema di combattimento che è fatto molto bene. Ah beh, il combattimento è in prima persona e vedete la schermata di battaglia, attacco, oggetti, magie. Sì, RPG Maker 2000. Sì, sì, siamo, no, perché è un vecchio gioco, non è mica Mario RPG, che, è no, che per precisare è l'ultimo gioco del Super Comunque Nintendo. I Final Fantasy di quegli anni usavano già il sistema, hanno sempre usato il sistema laterale. E cosa ne pensi, Riccardo, del sistema laterale? Niente, sto combattendo con i magliari. Riccardo, non c'è più, è nei dungeon di Diablo. Ma no, io sono sempre qua che ascolto. Oh, c'è. Una vita extra. Non ti sento più, ma ci sei. Ma quando sto zitto, sto zitto. Che finiscano i 10 secondi. Ok, parla. Parla. In che senso? Cosa devo dire? La musica di Tombi ti copriva. No, semplicemente non parlavo. Prima. Ah, ok, no, va bene. Cosa sta? F0. Mute City. Ah, sì, sì, sì. Ovviamente non comunque siete nel mondo di Onyx, ma troverete un sacco di cui parlare, cavolate. Potete andare in albergo a salvare quando vi pare, mangiare tutti i panini per curarvi. Poi nel seguito di Onyx. Seguito di Onyx, Mother 2, non so perché 3. Non ho speso 250 euro per comprarlo. 3. Come... è Mother 3. Mother 3, non ho speso 250 euro per comprarlo come non li ho spesi per Earthbound, perché sono riuscito a inoltrarlo magicamente nella mia Wii. Magicamente. Come, ma come fanno... 250 euro sono... Anche tu hai una Wii magica in cui i giochi arrivano da soli senza comprarli? Sì, sì. Ce l'abbiamo tutti la Wii magica. Certo, è quella che non è niente. Posso aggiungere una cosa? Ok. Sergente Pepper ha detto la sua. Un applauso a Sergente Pepper. Ovviamente si ricorda che la Wii Magica, voi potete avere i giochi, però i giochi vanno comunque comprati e cosa buona e giusta avere una copia comprata. No, è che la Wii Magica devi essere fortunato e averla, perché non è che tutte quelle che compri sono magiche. C'è un aggiornamento per renderla ancora più magica, ricordatevelo, scaricatelo sul sito. È nera, sì, e no. Fa il cappello. Vai Riccardo, parla di quello che vuoi parlare tu. Oh, parliamo un po' dell'ultimo gioco uscito da casa Blizzard. Okay. Molti lo conosceranno. Diablo 3. Of Pandaria, bellissimo gioco. No, quello non è ancora uscito. Ah, ok. Viene di Diablo 3. Benissimo. Cos'è Diablo 3 intanto? È un gioco che la Blizzard considera un action RPG. È un hack loro, and slash. Loro lo considerano così, io lo considero una mazza e fuggi. Per io non ho mai detto. Sì, è un hack and slash, ovviamente, perché action RPG semplicemente significa che ha, a differenza di certi hack and slash, una storia, un cosiddetto lore, cioè una storia, diciamo. Missioni che in realtà sono semplicemente lineari, perché tu prendi una missione e non hai tante mini missioni, semplicemente una cazzo di missione che vai avanti e dovrai ripetere per circa milioni di volte più o meno. Però vabbè, come funziona? Questo qui è il seguito di un gioco che ha fatto molto successo, Diablo 2. Ovviamente Diablo 1 non ne parla mai nessuno, ma esiste anche Diablo 1 non aveva ancora un multiplayer così avanzato, quindi ok, è stato comunque un gioco che ha venduto, però ancora il multiplayer non era cioè il gioco non era ancora centrato sul multiplayer. Invece Diablo 2 già inizia a essere dare molta importanza al multiplayer, pur essendo giocabile completamente in single player. Sto guardando uno screenshot del primo Diablo e ci sono delle creature che sono bellissime, perché sono tutte RGB. Ci sono quelle verde, quelle blu e quelle rosso. Sono meravigliose. Sono gli omini. Credo siano draghi di monocolore. Sono gli omini della Terra del Fuoco. Ah, probabile, pieno di fiamme. Comunque, vai avanti. Allora, questo gioco qui, diciamo, già da Diablo 2 inizia capire come la Blizzard cercava di creare giochi sempre più rivolti al social, diciamo, far socializzare più gente per giocare insieme, diciamo. Per forza, hanno fatto tanti di quei soldi facendo così. Esatto, ovviamente la Blizzard non è che sta facendo questo per farci un piacere a noi, ma perché noi per giocare paghiamo. Diablo 3 è stato, diciamo, come dire, ha un po' rivoluzionato un po' alcune cose, tipo ora non esiste più la modalità single player offline, ora anche la modalità single player. Si tratta semplicemente di partite fatte in solo, cioè semplicemente tu non vuoi che nessuno entri, blocchi la partita in modo che ci puoi entrare solo te, ci puoi stare solo te. Quindi anche se tipo io volessi giocare sempre da solo, sarei sempre costretto ad avere una connessione a internet, a subirmi qualunque problema può avere un server, perché per chi ha giocato i primi giorni, le prime 2 settimane, sa quante bestie mi ha tirato perché un giorno voleva giocare e per tipo 3 ore i server non erano accessibili. Magari non gliene fregava niente di giocare con altre persone. In Diablo 3 i nemici si ammassano soltanto in testa. No, però più o meno... No? No. No e basta. Allora devi usare le magie. Sì. Devi praticamente... Dai, come combattimenti, diciamo, non è molto complicato, però c'ha comunque dei risvolti che non lo rendono un semplice hack and slash. Premi un tasto e ammazzi tutto. Sì, come ad esempio Titan Quest, gioco sconsigliatissimo. Cioè, ci sono alcune cose che vengono molto prese dai giochi di ruolo, come le statistiche dell'equipaggiamento. Cioè, è molto semplificato, però comunque... Vabbè. Scusa, ma mi sa che l'altro produttore esecutivo si è arrivato. Stava graffiando nella porta, eccolo qua. Ah, eccolo. Molto... Vale. Ok, è arrivato la bocca. Comunque esiste diciamo serie di cose che rendono più complicato di un semplice anche slash, come il fatto che hai hai 5 tasti, diciamo, da premere, no? E ogni tasto c'ha almeno 3 abilità tra cui puoi scegliere, diciamo. E quindi c'hai un totale di non so quante, ma veramente tante abilità, che oltre all'abilità stesse hanno, ogni abilità c'ha un tot di rune che ti danno degli effetti speciali a quell'abilità, e quindi ti consente di fare combinazioni molto complicate, diciamo. In realtà ovviamente ci sono delle combinazioni che sono superiori ad altre, quindi basta una rapida ricerca su Google e trovi una delle le combinazioni migliori per la tua classe, però volendo ti puoi sbizzarrire in teoria. Poi soprattutto il personaggio è personalizzabile, non nell'aspetto fisico, cioè tu hai un personaggio già pronto, caratteri già pronti, cambi solo il nome. Del resto la personalizzazione si basa più a livello, come dire, matematica. Cioè ci metti, non so, per fare più danno, per sopravvivere di più, ci sono varie resistenze, varie abilità tipo velocità d'attacco o danno a colpo critico, probabilità di colpo critico, vitalità, e poi le statistiche principali, classica destrezza, intelligenza, forza. In questo genere di giochi la parte che preferisco è la creazione dei personaggi. Qui quanto è personalizzabile? Ecco qua, non ti divertiresti per queste cose qui. Immaginavo. Perché il personaggio, tu crei il personaggio, ci cambi il nome, il personaggio è già pronto. Dai, ma siamo per fare maschio e femmina. Perché mai queste cose? No, ma è così. No, invece è così, perché è dal Diablo 1 che è così. Quindi semplicemente il gioco è così. Vabbè, però si migliora. Ad esempio ogni Elder Scroll è sempre più vasta la creazione. Ma Elder Scroll è un gioco diverso da Diablo. Elder Scroll, se non avesse sta cosa della personalizzazione del personaggio, sarebbe un gioco da usare per... Cioè è inutile, perché è un gioco tutto basato sul personaggio, su come lo vuoi costruire il personaggio. Ma anche qui sei solo il personaggio, no, che va avanti. Qui alla fine è molto... Esatto, qui è molto più semplicistico come sì, cosa. Sì, ok, però sei lui tutto il tempo, quindi dovrai pur personalizzarlo. Diciamo che Diablo non è stato concepito per questo genere di cose, diciamo. Ok, però siamo al terzo capitolo e ancora si fanno le stesse cose del primo, quindi c'è qualcosa che non va. Semplicemente vai avanti con la storia, ci sono alcuni miglioramenti in altri aspetti, non è che c'è qualcosa che non va. È come se io ti dicessi che Super Mario non mi piace ammazzare i mostri saltandoli in testa e vorrei che mi mettessero una mitragliatrice per ammazzarli. Super Mario 3, potevi volare con io come un prossone se prendevi una foglia, prima non potevi farlo. In Diablo 3 puoi farlo? Non penso proprio. Anch'io però. E nel Galaxy c'è la gravità, ogni corpo stellare ha la sua gravità. Più che altro Diablo 3 è stato anche un salto indietro per certi versi. Tipo il fatto che la storia è molto più corta, quindi per persone tipo come me, che non, dopo un po' di volte che, cioè, un po' ti annoia, invece c'è gente che ovviamente non si annoia, è la gente che ovviamente piace ancora Diablo 3. Ma sai, ho notato che in generale tutti i giochi hanno la storia sempre più corta, vedi gli FPS, perché tanto la gente vuole arrivare a multiplayer, esatto, perché è una scusa per imparare a giocare bene, come in Halo e come in Call of Duty, esatto. Ovvero giochi per bimbi minchia, ma... Praticamente quei giochi lì sono incentrati più sul multiplayer, perché il bello di quel gioco è il multiplayer in realtà. E quindi la storia è solo una scusa per imparare a usare... La storia è un tutorial. Sì, un lungo tutorial. Però cosa penso che sia ridicola, però vabbè. C'è chi può piacere, perché anche Warcraft 3, cioè Warcraft 3 è un gioco fatto molto bene, perché ha una storia veramente ottima. Sì. Però è un gioco che molti magari hanno fatto la storia fino a un certo punto, poi si sono rotti della storia e hanno subito iniziato a fare multiplayer. Anche perché ovviamente la storia di Diablo non è molto competitiva come... La storia di Warcraft 3, se sai già giocare al gioco, è di una noia pazzesca perché è troppo facile. Cioè, tutte le missioni finiscono... Invece, per dire, io che ho iniziato a giocare a Warcraft 3 facendo la storia, quindi partendo da zero, invece a un certo punto ho anche trovato la difficoltà all'inizio, perché ovviamente non ero... capaci di fare alcune cose tipo saper ottimizzare bene le risorse per creare un'unità migliore e così via. E lì il gioco dove la storia è tostissima, è due RTS mi vengono in mente, Battle Realms, dove la storia da buono è, sono dei pezzi che veramente ti fanno dannare, e l'altro era Tizar the Burden of the Crown. In Tizar ci sono delle missioni che devi salvare ogni 5 secondi, perché se tipo in quei 5 secondi hai perso delle unità, ti tocca caricare e micrare l'unità il più possibile. Micrare vuol dire cercare di salvare le unità con poca vita. È come quando scappare. Liberi una scimmia da un barile. È vero, bisogna cercare di... Con un pollo di gomma. Limitare i termini tecnici. Sì. Però, vabbè. E se basta, mi ricordassi la password di twitch.tv ti farei anche vedere lo stream, così potresti giudicare te il gioco. Diablo? Già. No, non sono interessato, cioè... No, beh, ma ti vogliono i commenti anche di quelli che, a cui non piacciono questi giochi. Tipo, a me Diablo 3 mi ha, diciamo, non dico che è stato un acquisto sbagliato, anche perché io, essendo un giocatore di World of Warcraft, me l'hanno dato dell'offerta gratuitamente grazie all'annual pass, siccome io a World of Warcraft so già che ci giocherò, e poi comunque anche se mi stufo di giocare a World of Warcraft e Diablo mi fa schifo, posso comunque non ricaricare la PostePay e mi cavano semplicemente questa offerta. Ovviamente dico, anche se l'avessi comprato non sarei stato completamente deluso da questo gioco, perché... Un mesetto, come dire, mi è durato almeno come gioco, almeno come divertimento. Però ancora adesso continuo a giocarci nei momenti in cui niente da fare, in multiplayer con altre persone per divertirmi. Ovviamente ora come ora veramente non ho nessuna voglia di giocare in single player, perché sinceramente non è un gioco che mi ha coinvolto così tanto. Una volta che hai finito la storia uno o due volte, avendo finita, siccome ci sono quattro modalità, dal normale all'inferno, dove semplicemente l'unica cosa che cambia è la difficoltà, cioè, dopo un po' ti stufa proprio la cosa. A un certo punto i dialoghi li salti, proprio appena vedi un dialogo premi il tastino per saltarlo. Ah, ci sono addirittura i dialoghi, questo già non me l'aspettavo. No, ma quel lato lì è fatto abbastanza bene, ci sono dialoghi, cioè ci sono le cinematiche, proprio i video, la storia è costruita bene, il problema è che la storia in sé è banale. Storia come costruzione fatta veramente bene. Il problema è che è la banalità proprio della storia. Ed è corta, ovviamente, molto corta. Inizialmente, quando la fai la prima volta in modalità normale, grazie anche alla semplicità proprio del gioco in modalità normale, se ti impegni 3 ore finisci tutto. Sì. Ovviamente andando più avanti inizia a essere sempre più difficile. Quando sei arrivato a un certo punto, che era la modalità inferno, solo per andare avanti ti tocca rifare lo stesso pezzo, ti tocca rifarlo tipo 10 volte, perché devi sperare che il mob ti lasci, quando muore ti lasci qualcosa, che l'equipaggiamento che ti serve. Ovviamente, a differenza di Diablo 2, esiste, in Diablo 3 hanno aggiunto una casa d'aste, che è il punto, siamo forti alla fine di Diablo 3. Insomma, però... fare money, big money! No, anche se, aspetta, tralasciando il fatto che ci sono due tipi di casa d'aste, quella a soldi reali e quella normale, in soldi virtuali, parlando di quella dei soldi virtuali, semplicemente ti è comodo perché, che so, io ammazzo il boss finale, il boss mi droppa, cioè mi lascia per terra un oggetto che non mi serve, ma che è un oggetto comunque fortissimo, magari per un'altra classe, la metto in casa d'aste, soldi, sì, soldi reali, in casa d'aste normale, soldi virtuali, a un prezzo, e la gente che magari ha i soldi... E magari ho droppato una cosa da mago e l'ho messa in asta, arriva un mago e me la compra. In questo modo io posso fare la stessa cosa con i soldi che ho guadagnato vendendo questa cosa qui, mi compro un pezzo dell'equipaggiamento per la mia classe. In questo caso sto giocando il monaco. Poi hanno aggiunto la casa d'aste a soldi reali, che altro non è che una casa d'aste identica a quella a soldi virtuali, solo che tu ci puoi ricaricare i soldi dal tuo conto PayPal e comprare e vendere, ovviamente, per soldi euro. E quanti soldi si fanno? Cioè, si fa un contatto? Ecco, una volta se ne facevano abbastanza, adesso se ne fanno un po' meno e si riescono a vendere soltanto le cose che valgono abbastanza. Cioè, però ho compiuto pochi mesi fa. No. Quando però i prezzi sono in maggio, 15 maggio. I prezzi sono abbastanza, sono anche prezzi veramente assurdi, ma lì perché semplicemente il massimo è 250, quindi uno vede, uno può mettere anche qualunque cosa a 250 euro, non è detto che qualcuno la compri. Però di solito le cose si vendono sui 15-18 euro, fino a 20 euro, tipo, che a volte puoi anche pensare che tipo, non so. Ridì a quanti soldi si vendono? Fino a 20 euro di solito, anche c'è gente che compra anche a 50 euro, gente passa, perché ovviamente devi contare che questa cosa qui è certo, non anche banale. Estesa a tutta Europa, quindi in tutta Europa troverai sempre quello che avrà voglia di spenderci dei soldi, e poi puoi fare anche cose di questo genere. Magari come ha fatto uno che conosco, lui ha venduto tante cose a 3-4 euro l'uno, ne è venute tante, cose banali a 3-4 euro l'uno, finché non si è fatto una trentina di euro. E poi quella trentina di euro l'ha spesa sempre lì e si è comprato una cosa che gli serviva. Salutiamo il capogilla di Riccardo. No, non è il capogilla, non è il mio capogilla. No. Ah, è vero, scusa. Comunque, diciamo, lui ha comprato da casa d'asta soldi reali, però non ha speso niente alla fine, semplicemente ha venduto delle cose per fare, alla fine è un numerino, non c'è né guadagnato né speso. Magica. Perso. È come se avessi usato i soldi normali. La solita banconota, 250 euro, gli è arrivata. Sì. E dopo si è comprato un Earthbound che volevi te. Io personalmente ho venduto un anellino che non era niente male a 12 euro. Per dire. Beh, dai, 10 euro. Da. E poi ci puoi anche vendere direttamente i soldi, i gold, cioè i soldi virtuali, puoi direttamente vendere, comprare, tipo costano 1 euro al milione. A livello musicale, colonna sonora, Diablo com'è? Allora, a livello musicale, la colonna sonora va... io l'ho permanentemente disattivata. Ah, ok, quindi non lo sai. L'ho provata, cioè l'ho sentita all'inizio, solo che io non sono un grande fan delle colonne sonore di questi tipi di giochi qua. L'unico gioco che sinceramente ho apprezzato la colonna sonora sono Grim Fandango e Monkey Island. Del resto non sono mai riuscito in altri giochi a tenere la colonna sonora accesa. Non perché sia brutta, perché la gente l'apprezza anche. Infatti non era neanche male. Perché semplicemente mi distrae. Sì. Monkey Island 3. Non andiamo sopra il 3... Dammi 2 nanosecondi. Però non ho provato altro. Comunque dicevo, a livello di colonna sonora non ti posso dare un commento, non ti posso dire né che sia bella né che sia brutta, Riesci a semplicemente sentire? io ti sento. Non Sento me. La musica? sì. Ok. Vai, vai, continua, continua. Tipo Monkey Island. Comunque. Sì. dicevo, però a livello tipo di suoni, di animazioni, cioè quando tipo le abilità così, è fatto abbastanza bene. Questi anime sono abbastanza curati. Parlo di Plunder Island. E niente, quindi se dovessi dare un voto da 0 a 5 in banane a Diablo 3, quante banane daresti? 3. Tre banane. Una. Almeno. Vabbè. Probabilmente adesso giustificherò meglio il mio voto. Allora, per me 5 significa che il gioco mi è piaciuto veramente tanto. È un capolavoro, 1, dai. esatto. 1 significa che è un gioco che butterei nel cesso. Come una Vabbè. banana. Non partire dagli estremi, vai in fila. Anzi no, perché non lo butterei nel cesso perché mi intaggerebbe, quindi. Esiste anche lo zero, eh. Le due banane Ah, sbucciate. esiste anche lo zero. Ecco, lo zero è un gioco che non Sbucciate. comprerei neanche. Cioè, lo vedo sullo scaffale e dico no. Vabbè. I miei zero. I miei giochi zero sono finiti frantumati contro il muro, usati come frisbee, però. Vabbè, comunque. Sono quelli che davo le pastine ferrate. 2 direi che è un gioco che mi è. Che non mi è piaciuto. Un gioco che non mi è piaciuto, però. Però, boh, magari è un gioco che io considero come il diciamo, il fatto che non mi è piaciuto come cosa personale. Magari ad altri può essere, può piacere, non lo voglio smontare del tutto, però è un gioco che sinceramente non mi è divertito. Poi ci sono 3. È un quelli gioco che non mi ha pienamente soddisfatto, cioè poteva essere gestito molto meglio, però mi ha intrattenuto per un po' di tempo, Quindi quindi siamo qui, siamo a questo 3. questo 3, esatto. Ok, quindi ti ha intrattenuto, ma poteva essere meglio. Esatto, poteva migliorare molto. Cioè, la maggior parte dei giochi che escono oggi sono così. Cioè, ti Il danno 5 un. è un voto abbastanza che non do praticamente mai, quindi il 5. 5 banane, quindi Banale. Fandango, ad esempio, un gran gioco gli darei 4, gli darei 4 perché 4 Cosa hai detto? è un gran gioco, sì, che altro significa che è un gioco che mi è molto piaciuto, però non me la sento di dargli 5. Di banane non di Cioè, ovo. Ah, ecco. perché non sono un intenditore di avventure grafiche, No, quindi perché non sono intenditore di banane. no, vabbè. Sinceramente i miei voti non devono essere presi alla lettera. Io Grifandango è un gioco che consiglio a tutti, Ognuno sinceramente, di provarlo almeno, che di vuole. provarlo. Ad esempio, per me le 5 banane se le guadagnano Grim Fandango, Silent Hill 2, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 e basta. Sinceramente, ora come ora le 5 banane. Forse sai, Green Fandango potrebbe arrivarci. Adesso su DP ho detto 4, però Green Fandango è un Monkey Island 3. Le banane in teoria dovrebbero essere attribuite alle scimmie, nessuno parla di Donkey Kong. Non me la Non sentirei di arrivano a 5. No, Già Donkey una Kong volta. Country 2 di questo non arriva a 5 banane. Non Per ha più me di no. 60 livelli, non ha un boss segreto, 50 livelli segreti, non ha 60 monete bonus e 30 monete di K che se le prendi tutti batti in classifica anche Yoshi. Povero Yoshi. È come dire che Yoshi Story vale 3 banane, che non se le merita. Che bello! Ok, Yoshi Story, sorvoliamo. Hanno citato Yoshi Story, quindi vuol dire che bisogna cambiare argomento. Siamo arrivati ai minimi storici. E allora parla di Fimera Fantasy. Quindi chiudiamo la parentesi Diablo con un voto di 3 su 5 della serie. Qualche ora di svago, ma poteva essere meglio. Quanto costa Diablo 3? Allora, se lo vuoi comprare su internet Digital Delivery dalla Blizzard sono 60 euro. Però l'ho trovato a 47 euro su Amazon. Ok. Spedizione gratuita direttamente a casa. E non è in digital delivery, oltretutto. Ed è scatolato. Puoi Cioè. comprare. Cioè, nei negozi ufficialmente dovrebbe stare a 60 euro comunque. Anche scatolato. Però magari lo potresti. Siccome i prezzi di Digital Delivery sono molto fissi, quelli di queste siamo, case qua. Se vai a Sì. comprarlo scatolato, magari lo trovi anche a 55-50 No, così. è perché sai, quelli di Amazon sai come fanno a procurarsi la roba, no? Ribaltano i camion Come si faceva ai vecchi e tempi, poi non penso, non portano tutto in magazzino. Amazon è molto, No, molto... scherzavo. Ecco, Diciamo... allora ti racconto un aneddoto. Non mi ricordo quanti anni fa andavo alle superiori. Un noto negozio di videogiochi di Forlì, di cui non dirò il nome, aprì in ritardo una mattina e il corriere, che era un bravissimo corriere sicuramente, lasciò la scatola con i giochi ordinati davanti al negozio. Era una scatola piena di GTA Sant'Andreas, mi sembra. Ce n'erano tipo 30. E un compagno di classe di un mio amico ne fu uno di quelli che depredarono la scatola, ne portò via tre, per dire. Comunque quella scatola venne depredata. Quando arrivarono quelli del negozio, ovviamente era vuota. Non è tutta una storia triste. Sì, è molto triste perché loro hanno speso non so quanto, il corriere sarà stato Sì, qualcuno licenziato. senza motivo si è preso tre copie di un gioco Ah, per la le stessa rivende. cosa. Non le rivende, li gioca tutti e Era tre. appena uscito, vabbè. Appunto. Poi GTA Sant'Andrea, vabbè, dai, a quei tempi era un bel gioco. Anche adesso, dai, chi Ma diverte. ancora adesso potresti riuscire a rivenderlo se è un gioco Ah sì, ho visto comunque che Sant'Andrea che c'è da rimane, e il trovare. Vice City sono quelli che sono piaciuti di più. A me sinceramente piace più GTA 3, però vabbè. Sì, quelli più, il più famoso è Sant'Andreas, ovviamente, quello che quando Ma vai a vedo che piace di più il fare... Vice City soprattutto per la colonna sonora, perché quella del Vice City è spettacolare. Allora dobbiamo parlare di RPG. Sì, ok, dopo l'aneddoto parliamo di RPG. Ecco, Dipende ora che siamo arrivo. pronti a parlare di Comunque, beh, i RPG. Pokémon sono un RPG, Sì, da un sì. certo punto di Pokémon vista. Argento, un 4 su 5, 4 banane se lo merita. Dipende quante caramelle 4 caramelle rare su 5, va bene. Parliamo di Ephemeral Fantasia. Ephemeral Fantasia è uno dei giochi più sottovalutati e meno venduti della storia, probabilmente, nonostante sia un gran gioco, a dirla tutta. Perché il problema sostanziale di questo gioco è che era troppo sperimentale. In un periodo in cui i giochi più venduti erano Final Fantasy e Company, diciamo, e la Squaresoft era sulla cresta dell'onda, tutti pensavano che i JRPG fossero solo quello. Mentre, come appunto Earthbound ci ha insegnato, i JRPG riescono anche a sperimentare. E mentre i Final Fantasy Wannabe, come il buon Legend of the Dragon, che è un gran gioco, spopolavano. Non è wannabe, lui è un gioco No, proprio. però un Wannabe, perché Non è un wannabe, vabbè. è tutto diverso. Comunque, Ephemeral Fantasia passò proprio in sordina. Soprattutto perché era un gioco che era stato progettato per essere della generazione prima, ma siccome lo sviluppo durò tantissimo, invece che uscire per la PlayStation Dreamcast, uscì per la Play 2. Uscire per la Play 2 fu una condanna, anche perché la grafica non era al passo coi tempi. Cioè, lo stesso anno in cui uscì Final Fantasy X con quella grafica della Madonna, uscì Ephemeral Fantasia con una grafica spoglia e con modelli 3D che poco più che Final Fantasy VII, cioè 5 anni prima, 4-5 anni Quindi prima. immagino che il pubblico abbia gradito questa cosa, No, conoscendo. infatti, a parte Final Fantasy X, in quell'anno di JRPG uscì solo quello, credo, e tutti dissero: oh, non escono per la Play 2, non ne escono. E quando annunciarono questo, tutti poi vanno a vedere le immagini, bu bu bu. Perché purtroppo la gente si basa troppo sulla grafica e si perde dei gran giochi. Cioè, È normale. giochi degli anni pensiamo 90 e 80. a Super Metroid, che è meglio della metà dei giochi che sono oggi, nonostante sia in due dimensioni. Vabbè. E comunque, questa Ephemeral Fantasia poi non viene dalla penna di un signor sconosciuto, perché lo sceneggiatore di Ephemeral Fantasia altri non è che Riku Sanzu, ovvero sceneggiatore dell'anime dei Digimon. Sceneggiatore del manga Dai la Grande Avventura, un manga che chi è della mia generazione ricorderà, che è uscito in Italia anche come cartone animato col nome dei Cavalieri del Drago. E poi ha sceneggiato altra roba che non mi ricordo. Comunque, in generale, anime e manga. La sua prima uscita con i videogiochi è questo Ephemeral Fantasia. E Riku Sanzu, appunto, ha lavorato con il manga della Grande Avventura nella saga di Dragon Quest, quindi sa bene o male come funziona un JRPG, perché Dragon Quest nasce come JRPG, poi sfocia in cartoni animati, fumetti, gadget e roba varia. Proprio Show me your moves. così. Grazie, Gabriel Falcon. Poi, quindi, Riku Sanzu, un signor sceneggiatore. prodotto dalla Konami, quindi una marca coi controcazzi. Ricordiamo Castlevania. Ricordiamo Castlevania. Zombie della Capcom. No, della Konami. Silent Quando Hill. Tu accendi zombie parte il cosino della Konami. Sì, vabbè, ma l'hanno prodotto mica. L'ha sviluppato la LucasArts. Comunque la Konami. Vabbè. E anche Silent Hill hanno prodotto. Quindi ci sono quei videogiochi ci capivano una volta. E vabbè. Quindi questo è Ephemera Fantasia. Andiamo a esaminarlo nel dettaglio. La trama è semplice, ma molto molto semplice. Mouse è un silenzioso musicista errante che viaggia per il mondo con la sua chitarra parlante chiamata Pattimo, che è un antico, in realtà è un antico artefatto, e le altre persone non sanno che la chitarra parla, lo sa solo lui e Pattimo. E Mouse però in realtà usa l'identità di musicista per mascherare il fatto che lui è uno dei ladri più bravi del mondo, e la sua fama di musicista arriva nell'isola di Pandul, un'isola isolata dal resto dei continenti e governata da un re, Sir Xerfefolis, e che in realtà non è ancora il re, diventerà re quando sposerà la regina, quando sposerà la principessa. Cosa è il finale? No, lo sai già che sposerà la principessa. Detto il finale. E appunto tu, Mouse, viene chiamato nell'isola per suonare alla cerimonia di nozze di Xerfefolis e la principessa. Solo che Mouse arriva sull'isola per fare per suonare la cerimonia, ma il suo vero scopo in realtà è rubare gioielli reali. E il problema di tutto ciò è che quando verrà chiamato il primo giorno, appena arrivato sull'isola, nella sala del trono per mostrare le sue doti a Xerfefolis, si innamora perdutamente della principessa. E quindi diciamo che metterà il suo compito di ladro in secondo piano. Ma questa trama in realtà è solo uno specchietto per l'allodole, perché dopo qualche ora di gioco scopriremo che questo è solo un espediente narrativo per arrivare a quella che è veramente la trama, che è qualcosa di molto più complicato. Ok, andando avanti, appunto la chiave del gioco sta nella spirale temporale degli eventi, perché praticamente tutta la storia del gioco è basata su una riproposizione ciclica della storia, come si chiama quel gioco? Com'è che si chiama quel gioco francese lì che c'è te, avventura grafica? Chronicles of Memory, no. Shadow of Memory. Come in Shadow of Memory. Io dove... non conosco. Come? Io gioco solo i giochi anni Vabbè. Shadow of Memory sono esistiti. Come Shadow of Memories, dove gli eventi vengono riproposti e tu puoi modificarli. La chiave di Ephemera Fantasia sta in questo. Solo che per arrivare a questo devi sorbirti ore, 5-6 dai, di gameplay assolutamente ripetitivo e scialbo, dove vai ad affrontare nemici debolissimi, raramente vai ad affrontare nemici debolissimi con un sistema di combattimento cioè che neanche 10 anni prima ti propinavano, e soprattutto devi andare a cercare gli eventi chiave per andare avanti. Però se si ha il coraggio e la forza di superare questo approccio iniziale al gioco, si scopre qualcosa di veramente più grandioso. Perché quando finalmente hai la possibilità di esplorare l'isola di Pandul, scopri che è veramente qualcosa di vasto e dove c'è molta roba secondaria. Insomma, l'esplorazione diventa la chiave. E il sistema di battaglia rimane quello che è, ma i nemici diventano più competitivi, soprattutto nei dungeon. E un'altra cosa importante sono i tanti personaggi. Oltre a Mouse avremo altri 11 tipo personaggi, veramente tanti, ma non tutti obbligatori. E quindi anche e quelli secondari sono veramente belli, quindi conviene cercare anche quelli secondari, anche se è difficilissimo prenderli, bisogna sicuramente consultare una soluzione. E solo che non diventa tutto rose e fiori quando si esplora l'isola, perché dovremmo anche esplorare i dungeon, purtroppo. I dungeon sono pochissimi, ma sono terribili. Perché non sono altro che una texture ripetuta all'infinito per vasti corridoi labirintici e con incontri casuali di nemici ogni tre passi. Quindi Un dungeon vuol dire 3 ore di combattimenti infiniti nel corridoio con un'unica texture. È la mia vittoria. Sì, in 3D. Sì. Quindi incontri gol, batte grave. E alla fine del dungeon abbiamo i boss. I boss in tutto il gioco sono dei tank. Sono delle enormi creature con 5.000-6.000 di vita e noi che li attacchiamo e ci curiamo. Tank e spank. I tank e spank. Tranne alla fine, dove finalmente i boss iniziano ad avere abilità che rompono veramente con gli status o con la morte istantanea, e lì devi strutturarti veramente bene la battaglia. Infatti, quando si arriva verso i tre quarti del gioco, la difficoltà cambia dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle. Da una difficoltà normale diventa molto alta. Quindi cosa dire di questo gioco? Ephemera Fantasia è un gioco per gli hardcore gamer dei JRPG che devono avere una bella pazienza, ma se ce l'hanno arrivano veramente a scoprire qualcosa di profondo, soprattutto ai termini di sperimentalità dei gameplay. È veramente sperimentale il gioco, ed è stata questa la pecca. Era sperimentale in un periodo in cui tutti volevano qualcos'altro. Se fosse stato l'ennesimo Final Fantasy wannabe avrebbe venduto un casino, e invece è stato un flop, purtroppo. E a Ephemera Fantasia io darei 3 banane. Volendo 3 banane e mezzo, perché ha delle mancanze, ma queste sono comunque coperte da quanto sperimentale il gioco. Perché un'altra cosa di cui non ho parlato, che è una delle chiavi, secondo me, della buona riuscita di un JRPG, è che il mondo attorno a te è vivo. Durante il gioco, le giornate del gioco cambiano ogni giorno e ogni periodo del giorno, ovvero ogni 4 ore, mattina presto, mattina inoltrata, pomeriggio, no, anzi in realtà è notte, mattina, pomeriggio e sera, tutta la città cambia. I personaggi in questi lassi 4 ore cambiano, gli NPC, i personaggi delle città, cambiano la frase che dicono, l'azione che fanno e anche il luogo in cui sono, e certi personaggi a certe ore non ci sono perché sono a letto, e altri invece sono solo di notte per ubriacarsi, e quindi la città vive. E beh, questo sicuramente è fondamentale, visto che ci siamo rotti le balle. Da un buon tocco RPG, dai. Sì, ci siamo rotti le balle di trovarci sempre il personaggio che fa i 3 passi all'infinito e ti dice nel castello c'è il drago. Sì, quello sì. Cosa? Tipo Diablo alla fine. O Final Fantasy 4, cioè nel 91 questo andava bene. Quando ti vuoi aspettare, se tu sei nato nella casa tot 1 della città tot 2, devi dire per forza quella cosa. Alle coordinate X23, Y29. RPG. Comunque, salutiamo l'Enterbrain e RPG Maker. Ti ho linkato qui il mio streaming, se vuoi vedere, così faccio un attimo, ti faccio vedere un po' due cose di Diablo. Adesso sicuramente. In questo momento, adesso guarda sulla chat. Ok, prima di tornare a Diablo, vogliono dare il voto a Erpon. Quante banane dai a Erpon? Ti volevo chiedere le banane. Non ho trovato tante banane. Io rimango anch'io sulle 3 banane perché ancora devo finirlo, ma quando avrò finito sono sicuro che troverò più banane ed aumenterà di voto. Ne parleremo alla prossima puntata, allora, quando l'avrei finito. Dubito che l'abbia finito per la prossima puntata. Va benissimo. Ok, le banane sono finite. Andiamo a vedere questo famoso streaming. Allora, intanto stiamo registrando da non lo so, mi dice solo quanto pesa il file, non mi dice da quanto stai registrando. La chiamata su Skype. Ah, sì, ancora un po' di tempo ce l'abbiamo. Perfetto. Allora, non ho parlato prima di Diablo, di una modalità che c'è da Diablo 1, che è la modalità hardcore. No, dal 2 sicuro, l'uno non mi ricordo. Hardcore, hai detto? Hardcore, sì. Quindi sì, usano tavoli, sedie e scale. No. No, l'arbitro no, non serve. Però la modalità hardcore si tratta semplicemente di una modalità dove se muori hai perso il personaggio. Posso chiederti una cosa? Stai streamando live? Sì. Ah, beh, il tuo personaggio è bello. No, questo non è il mio personaggio. Questo personaggio è bello. Ok, allora, vediamo un po'. Questo qui praticamente è la schermata di creazione del personaggio, quello che ti sto, che stai guardando adesso. Ok. Allora, se tu noti, non c'è niente veramente da personalizzare. C'è in basso a destra la descrizione del personaggio base. In alto sopra c'è, se noti, l'animazione, vedere qualche animazione del personaggio. Del resto puoi scegliere la classe, maschio o femmina, così diventa una femmina. Te lo vedi femmina? Ah, ok, sì, è tutta un'altra cosa da femmina. Esatto. Hai fianchi molto larghi. Ok, questo è il barbaro, per esempio. Poi c'è il cacciatore dei demoni. Ah, mi stai facendo vedere la creazione dei personaggi, ok. Esatto. Cacciatore dei demoni direttamente da Warcraft, no. No. Così è maschio. Poi c'è il monaco. Cioè, il maschio praticamente è un coso, è un elfo scuro. Sì, il monaco è questo. Femmina diventa così. Il monaco è un assassino. Pelato. Più o meno. Come quelli che rapino Samozu. Uguale alla femmina, alla fine. La poi femmina c'è... già è meno assassina e più monaco. Sì. Poi c'è la sciamana, che praticamente non è... non è... che diventa che maschio che niente, non è altro che il Witch Doctor, che l'hanno tradotto in sciamano, anche se sciamano in realtà si dovrebbe tradurre shaman. Se fosse un troll il maschio sarebbe meraviglioso. Già. Poi c'è la maga o mago. Mago mi ricorda un personaggio di Neverwinter, il maschio. Beh, mi ricorda un elfo scuro, un elfo del sangue, dei capelli scuri. Vabbè, poi vedi, puoi metterci il nome. Vabbè. E crei il personaggio. Qui c'è... Le icone della Blizzard sono uguali per tutti i giochi. Lo stile grafico delle icone. Sì, più o meno, sì. Andiamo indietro. Questo è il mio personaggio. Questo è... l'unico personaggio che ho portato a 60. Ok. Monaco. Del resto basta, ho finito per Diablo 3. Ok. E niente, siamo qui, apriamo l'angolo freeware, parliamo dei videogiochi gratuiti. Quindi, dato che siamo oggi a pochi giorni dall'uscita, parliamo dell'ultimo gioco Micio Segone, The Path of the Pumpkin. Che è degli anni 90. Sì. Ambientato negli anni 90 nel futuro. Quando io negli anni 90 ero un famoso grafico di videogiochi. No, sì che c'ero, ho fatto io la grafica. La farà in futuro. No, in passato, vabbè. Quindi deve parlare Riccardo o devono parlare tutti? Riccardo non credo ne sappia molto. Hai detto la trama? La trama? No, non l'ho detto. Hai guardato l'immagine della copertina? Devo ancora giocarlo. Hai messo la copertina? La copertina l'ho vista, non ti preoccupare. No. Per la prossima puntata avrò sicuramente scaricato il gioco. Scaricato. No, non ti posso garantire che l'avrò finito, bisogna vedere tra quanto faremo questa la prossima puntata, però sicuramente... Che molta gente si chiederà che razza di gioco è, io ne parlerò io che sono il creatore originale. Sì, sì. Tu sei stato creato dai tuoi bisnonno, non c'entri niente. Vai, parla del gioco. Molto semplice, il gioco è diviso in 6 capitoli, all'inizio abbiamo un prologo che è una sorta di tutorial, anche se in realtà non è un tutorial. Perché ci sono gli enigmi, ma si presenta un po' il protagonista e il suo strano assistente. Per chi non avesse capacità di utilizzare il pensiero laterale, o come viene chiamato... Diagonale. Diagonale, laterale, obliquo, c'è sempre la soluzione sul sito della Micio Segone Games. Aspetta, spieghiamo. Praticamente, il pensiero laterale, non mi ricordo dove è stato coniato questo termine, non mi ricordo proprio... Sta a indicare le avventure grafiche, cartoon o comunque demenziali in cui devi usare oggetti che assurdi su altre cose che non c'entrano niente con loro per ottenere la soluzione dell'enigma, insomma. Sono enigmi non logici. L'illogicità fa parte della comicità. Sì, sì, è come dire, se in Monkey Island non potevi usare scimmia su un certo oggetto, non aveva, cioè non no, poteva no, ridere. Non ho detto che non è comico, anzi, le avventure cartoon devono essere demenziali. Se non sono demenziali, stai sbagliando tutto. Appunto, cioè, cambia genere. scusa, è come dire, in Green Fandango, se non c'era Sigmund Freud, già, le cose andavano diversamente. Il mio bambino vuole un altro animale. Che tipo di animale vuoi? Vabbè, vuole? Avrei comunque apprezzato il gioco lo stesso, però... Sa fare tutto! No, è una piccola osservazione, dopo, vabbè, anche molti altri... Sa fare tutto, animali, psichiatri famosi, voglio Sigmund Freud. È una piccola osservazione, dopo ovviamente in Green Fandango c'erano un sacco di altri enigmi stupidi, che adesso non posso dire, perché... E che poi, Sigmund Freud, diciamocelo, può anche non servire a niente. No, però, da un... una peculiarità in più, cioè allora. è la pennellata lato dal tipo in Battle of the Pumpkin. Comunque, dopo aver superato il prologo, introdurranno la storia, che è molto semplice. Il nostro agente Scar, con l'aiuto del buon Mr. Fefe, assistente capitellologo di fama interspaziale, futuro attore del mondo dello spazio e in passato ballerino, in passato ballerino problematico, provetto problematico, vabbè, problematico, verranno assunti, si fa per dire, diciamo più che altro obbligati dal capo mafioso dell'astro mafia della di Tresciopoli sul pianeta spaziale a salvare la figlia dello stesso capo, che è stata costretta a sposarsi in un matrimonio proprio quella sera col principe Boom, col principe Boom e il suo assistente l'ignobile. Praticamente voi dovete semplicemente trovare il modo di infiltrarvi a matrimonio e sabotare il tutto. Semplicemente. Semplicemente. Ovviamente dopo la storia si evolverà come in tutti i videogiochi, perché sennò non sarebbe un vero videogioco. È molto semplice, sai, è come dire, ah, in Monkey Island bastava prendere la nave e Guybrush andava direttamente sull'isola e il gioco finiva lì. Se il gioco fosse stato quello lì non sarebbe stato questo granché. Togliendo la parte di Monkey Island nella battaglia finale. No, sì, ho capito. Ma facendo questo, la parte di rivoluzione. Ma anche sempre parlando ancora di Green Fandango, perché piazza a tutti. Basta parlare di Green Fandango. Beh, allora, che ci... Chiedimi di parlare male di Green Fandango. Tu, se i Runaway finiva dopo al museo... Che senso avrebbe avuto? Infatti. Vabbè. È per questo che i giochi vanno fatti i vari lunghi sviluppando la trama. Sì, ecco, da dire c'è questo. Il panorama delle avventure grafiche amatoriali è purtroppo costellato da giochi corti e insipidi. Questo è lungo, corposo e sicuramente ricorda molto di più la LucasArts di qualsiasi cosa faccia la Telltale Game, che sono degli incompetenti, dovevo dirlo, scusate. Non conosco questi signori, poiché io vivo con sì. la Nintendo sì, e la Luca... Sega. Negli anni 90 c'era ancora LucasArts. No, io non conosco i signori della qualcosa da tele... Sì, telechiappa. Telefono, proprio di... Sì, sì, mi ricordo che c'era Maniac Mansion. Sì, che lo fumo anch'io. No, vabbè, c'erano tutti gli anni. No, 90. C'erano alcuni, adesso mi ricordo. Solo Green Fandango, Green Fandango è del 99, mi sembra. Però lo conosco. Okay. Anche Runaway che non è del 99. Vabbè, del 2003 Runaway, mi sembra. L'ho visto su una copertina. Sì, la pendulo... Negli anni 90 ha già fatto Igor, Obiettivo, Kunanuyama e Hollywood Monsters. Ricordiamo quindi Kunanuyama. Non lo so pronunciare l'isola. Igor, Obiettivo, Isola e Hollywood Monsters. C'è anche da dire che comunque le avventure free si basano solo sul ruotare intorno ai stessi videogiochi, nel senso che tutti tirano avanti con i fangame dei videogiochi. Ci sono pochi videogiochi free che sono giochi amatoriali inventati con una storia inventata, un nuovo mondo, dei personaggi particolari. Da non confondere con i fangame, perché i fangame sono altra roba. E l'80% sono fangame. Ecco. Ovvero prendo personaggi famosi già esistenti e gli faccio fare cose assurde che sono venute in mente a me, anche se non penso che solo il creatore originale del gioco ha il diritto di muovere i suoi personaggi, perché è l'unico che li capisce avendoli creati lui. Ovviamente non stiamo parlando male, nel senso che... No, io ne parlo male. I fangame sono una cosa da nerd incapaci. No, io dico solo che se tu devi fare un fangame... Non lo fare. Cioè, come protagonista usi un nuovo personaggio, perché tu non ti puoi permettere di toccare il personaggio del creatore. Sai? No, ma è così. Se tu devi fare un fangame... Do a barrel roll! Ecco. Tu hai mai visto in un fangame fare un do a barrel roll? Fare un barrel roll? Se ne fa di Star quello Fox. Quello del sergente Pepper. Quelli di Star Fox, forse. E dipende se sei un giocatore di fangame o no. Vabbè. Niente. Un'altra cosa. Le avventure grafiche amatoriali di solito hanno tre percorsi. O sei un detective noir. Oh. O... Aspetta. Non è Noir, quindi. Sì, infatti, qui sei un detective, ma lo sai per... spaziale, lo sei... uomo sì, vabbè, lo sai per 5 secondi. Dopo praticamente non te lo ricordi neanche più te che sei un detective. No, infatti. È solo un espediente narrativo. Quindi, o sei un detective noir, o sei un temibile pirata, o sei un bidello spaziale, perché ormai anche, quello... anche il povero Roger Wirkle l'hanno stuprato in ogni modo possibile. Ah... aspetta, hai dimenticato il detective del Paranormal. Ah, sì, anche il Paranormal. È diventato famoso grazie a Benzo. Il Paranormal Investigator. E adesso tutti vogliono emularlo. Vogliono emularlo e stuprarlo, come farebbero Lucas e... chi era l'altro? Ciccione e Spielberg. South Park wannabe. E niente, quindi scaricate The Path of the Pumpkin all'indirizzo Mitch Segone. Non mi ricordo più il mio sito, un attimo. No. Sì, è Mitch Segone Games, no, Mitch Segone AGS, scusate. Mitch Segone AGS.altervista.org, dove trovate tutti i fantastici giochi Mitch Segone, ovvero la, i migliori videogiochi amatoriali italiani, come direbbe Bret Hart, i migliori di sempre, i migliori di adesso, no, aspetta, i migliori... I migliori sono i migliori che sono stati i migliori, sono i migliori e saranno per sempre i migliori, come direbbe Bret Hart. Ovviamente ho giocato anche a Space Hunter perché The Path of the Pumpkin è il prequel di quel gioco, quindi appena l'ho finito ho dovuto giocare a Space Hunter e fregato uno dei bug. E della grafica retro, perché comunque è normale. Erano gli anni 80, cioè, sì. Cose andavano diverse. Vabbè, la tecnologia andava più lentamente. Quindi fatemi un salto su... www.micsegoneags.altervista.org. Io direi che oggi possiamo salutarci qui. Per Micio Segone tra i Force è tutto. Un saluto da Riccardo Prati. Ciao. Ciao. Vabbè. Un po' più di enfasi. Bella. Vabbè, ma che enfasi devo mettere? Ti aiuto io a salutare. Show me a moves. Ok. Mostra le tue moves. Mostra le tue boobs. Poi, show your boobs. Poi, un saluto da Claudio Turri. Unga. E un saluto da Pietro Turri. Non mi viene in mente un saluto fatto per bene, quindi vabbè. Quindi, come direbbe... Più enfasi. Bene, per oggi è tutto. Alla prossima puntata, che sarà quando ne avremo voglia. Domani, ciao. Domani, ciao.